Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Si chiude la settimana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, si chiude la giornata e quindi questo è il momento di Effetto Notte, le notizie 60 minuti per riepilogarvi la giornata, avere un quadro chiaro, aggiornato di quello che è successo oggi e anche per sentire parlare in diretta diversi ospiti sui diversi argomenti. Per esempio, per quanto riguarda l'economia, sembrava l'IMU la protagonista, come lo è da tanto tempo, anche per questa sera, ma vedo già che il reddito di cittadinanza continua a salire di importanza e di dibattito. Piuttosto furioso e poi sentiremo anche un noto economista più tardi cosa ne pensa, ci sposteremo forse soprattutto sì, sul reddito di cittadinanza a questo punto, anche se l'IMU è uno di quegli elementi che continuano a creare veramente molta insomma discussione e vedremo anche come va a finire, perché c'è stato ieri una dichiarazione del ministro dell'economia Saccomanni e oggi quella di Letta, vedremo qual è la verità, c'è ancora un po' da aspettare. Ma intanto, come sempre, vi ricordo quali sono i titoli dei fatti principali. La manovra, quindi, dicevamo, sono 600 gli emendamenti presentati alla legge di stabilità. Letta assicura che non ci sarà nessuna retromarcia appunto sulla seconda rata dell'IMU, nega delle divergenze col ministro Saccomanni e si accende, come vi dicevo, il dibattito sul reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda la politica più in senso stretto con i partiti, PD da lunedì stop alle tessere, contrario è Civati che dice a questo punto è troppo tardi. Lampedusa ha arrestato lo scafista del naufragio del 3 ottobre scorso ed emergono racconti dell'orrore, prima del naufragio stupri di gruppo sulle donne e torture. Roma, il giallo della morte di Simona, forse abusata da una persona a lei vicina. Partiamo con il racconto della giornata, iniziamo quindi dalla legge di stabilità, dalla manovra. Il Presidente del Consiglio chiude la polemica, almeno per il momento, sulla seconda rata dell'IMU. Non si pagherà, ha detto al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, e dice nessuna polemica con Saccomanni. La prima e la seconda rata dell'IMU non verranno pagate dalle famiglie italiane, è una decisione già assunta, punto, e sulla quale non si torna. Il ministro Saccomanni ha detto quello che anch'io dico e che tutti noi diciamo, e cioè che la copertura di questo tema per quanto riguarda la seconda rata è una copertura non semplice sulla quale stiamo arrivando a conclusione, ma il tema per quanto riguarda le decisioni politiche sta nei termini in cui l'ho detto e non c'è da fare, da montare polemiche in più. L'ha detto, poi capiremo meglio. Parole di Letta, insomma, pronunciate dopo il Consiglio dei Ministri che ha avviato oggi l'esame del collegato ambiente alla legge di stabilità e il via libera arriverà alla prossima riunione. Almeno in materia di rifiuti, il testo che Legambiente ha visionato suscita le vive critiche di Stefano Ciafani, vicepresidente nazionale di Legambiente, intervistato da Laura Bettini. Collegato ambientale alla legge di stabilità, tra una serie di cose, prevede anche un condono alla sovrattassa per lo smaltimento in discarica. Per dirla semplicemente, i comuni che non raggiungeranno nel 2014 il 35% di raccolta differenziata, solo dal 2015 in poi pagheranno la sovrattassa per lo smaltimento in discarica. Quindi si fa un condono per tutti. Si continua a parlare del fatto che l'Italia smaltisce troppo in discarica, ma poi in Parlamento e in Consiglio dei Ministri che si fanno norme che favoriscono lo smaltimento sottoterra piuttosto che disincentivarlo. E come vi dicevo, prende sempre più piede il dibattito, un nuovo dibattito, in realtà il tema è in circolazione da tempo, ma finora era stato un po' in sordina, quello del reddito di cittadinanza. Grillo rilancia, parla di un salario minimo di 600 euro per tutti e per le coperture, tra le varie possibilità parla di tagli alla difesa e propone l'IMU alla Chiesa. Ma sentiamo per esempio cosa ha detto alla Zanzara il deputato 5 Stelle Pesco. I soldi ne servono parecchi e noi li troviamo tagliandoli al Ministero della Difesa, tagliando le pensioni d'oro, facendo pagare l'IMU alla Chiesa e ottenendo nuove risorse da gioco d'azzardo. Potreste naturalmente anche su questo esprimere le vostre libere opinioni sia alla pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, sia attraverso gli SMS, se volete, 349-238-6666, ma siete chiari quando scrivete, per favore. E passiamo ai partiti. Sul caos, tesseramento gonfiato, divisioni nel PD, ma la direzione ha deciso. Alla fine, ma proprio alla fine, la decisione arriva. La direzione del PD ferma il tesseramento prima del congresso. Stop alle iscrizioni da lunedì fino al giorno della convenzione nazionale fissata per il 24. Ma non vota Pippo Civati, che parla di proposta tardiva e insufficiente. Anche l'ex segretario Pierluigi Bersani è critico, così a Radio 24. Ma lì hanno sbagliato, diciamo, un po' tutti. L'altro giro, l'altra volta, non si fece così. Si chiuse il tesseramento un mese, due mesi prima dell'ultimo giorno, era quello da fare. L'appuntamento principale per il PD rimane quello dell'8 dicembre, quando non solo gli iscritti ma tutti gli elettori saranno chiamati a votare per il nuovo segretario. Lo stop arriva dopo lo scandalo delle tessere gonfiate ai congressi provinciali. Nel mirino Rovigo e Frosinone, continuano intanto le divisioni. Matteo Renzi attacca la posizione del PD sul caso Cancellieri. Per Bersani però il sindaco di Firenze la fa troppo facile. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E confronto sempre molto acceso anche nel PDL dopo l'incontro serale tra Alfano e Berlusconi. Oggi il Consiglio dei Ministri, il Consiglio Superiore della Magistratura si è espresso sulla famosa intervista che il giudice Esposito concesse a pochi giorni dalla condanna di Berlusconi al processo Mediaset. Quella telefonata fu sì inopportuna, ma il trasferimento sarebbe una misura estrema e irragionevole. Dunque nessun trasferimento per il giudice Esposito, presidente del collegio che ha condannato in via definitiva Berlusconi per frode fiscale. Esposito, lo ricordiamo, finito nella bufera l'estate scorsa con l'accusa di aver anticipato in un'intervista al Mattino le motivazioni della condanna prima del loro deposito. Così ha proposto all'unanimità la prima commissione del CSM al plenum di Palazzo Marescialli. L'intervista fu vistosa, inopportuna, si legge nella proposta, ma sarebbe irragionevole far derivare da un unico episodio di esternazione la misura estrema del trasferimento d'ufficio del giudice Esposito per incompatibilità ambientale o funzionale. È sostenibile però, scrive ancora la prima commissione, che la condotta di Esposito possa assumere rilievo disciplinare, tenuto anche conto che le dichiarazioni sono state rese in relazione a un processo non ancora definito. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In casa Lega intanto fa scalpore l'arresto di un noto amministratore locale, il sindaco di Adro, nel Bresciano. Maroni si dice certo però della sua estraneità. Io non mi sottraggo alle mie responsabilità di sindaco o alle responsabilità delle scelte che abbiamo fatto e che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Di sicuro Oscar Lancini, il sindaco leghista di Adro nel Bresciano, celebre per la scuola tappezzata con il simbolo del carroccio e per la mensa scolastica vietata a chi non pagava la retta, non potrà sottrarsi alle responsabilità che gli vengono contestate dal GIP di Brescia, Cesare Bonamartini. Il sindaco, 48 anni, imprenditore, si trova agli arresti domiciliari ed è accusato di peculato, abuso d'ufficio e falso. In concreto avrebbe favorito alcune aziende amiche nella gara d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche del paese. Altre 4 persone sono ai domiciliari, in tutto gli indagati sono 24. Il prefetto di Brescia ha sospeso Lancini dalla carica e ha affidato il comune al vice sindaco, anch'egli indagato nella stessa inchiesta. Lancini e compagni avrebbero utilizzato crediti del comune per finanziare l'area feste di via Indipendenza, di oltre 1 milione di euro tramite imprenditori vicini al primo cittadino. Nelle intercettazioni Lancini viene soprannominato lo sceriffo. Il sindaco, scrive il magistrato, avrebbe dimostrato totale disprezzo per le garanzie di imparzialità imposte dalla legge. Solidarietà a Lancini arriva dal leader della Lega e presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni. Sono certo, ha detto Maroni, che dimostrerà la totale estraneità alle accuse. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo vi ricordo che poi parleremo più tardi con un deputato leghista. E proprio oggi c'è stato l'anatema del Papa contro la corruzione, la chiamata la dea tangente. Questa povera gente che ha perso la dignità nella pratica delle tangenti. Soltanto porta con sé non il denaro che ha guadagnato, ma la mancanza di dignità. Preghiamo per loro. E torniamo a parlare della strage di Lampedusa, perché si aggiunge alla tragedia l'orrore. È stato arrestato uno degli organizzatori, 24 anni, somalo, appartenente a un gruppo di miliziani armati. Oltre al naufragio costato la vita, vi ricordate, a più di 300 persone, sono emersi dai superstiti dei racconti di esperienze disumane. Sono stati migranti sopravvissuti al naufragio del 3 ottobre al largo di Lampedusa, in cui sono morte 366 persone, a riconoscere il somalo Mohamud Elmi Muidin, 34 anni, ora arrestato dalla squadra mobile di Agrigento, con accuse che vanno dal sequestro di persona alla violenza sessuale. Insieme a lui in manette un palestinese, scafista in un altro viaggio della speranza, Attur Abdalmen, 47 anni. Dai racconti dei sopravvissuti a quel terribile naufragio sono emersi particolari agghiaccianti. Circa 20 ragazzi eritrei sono stati state stuprate in Libia prima di partire per Lampedusa. Sul barcone 19 di loro sono morte nel naufragio. Le donne venivano stuprate dai somali, tra cui l'arrestato che era il carceriere del campo libico, e poi offerte in dono ai miliziani libici. Secondo la ricostruzione degli investigatori coordinati dai magistrati della DDA di Palermo, le carovane di migranti vengono intercettate da organizzazioni paramilitari nel deserto tra il Sudan e la Libia. Vengono sequestrati, portati in veri e propri centri di tortura, sottoposti a sevizie e tenuti prigionieri sino a quando le loro famiglie mandano i rapitori in riscatto, dai 3.300 ai 3.500 dollari. Poi vengono portati sulle coste e imbarcati per l'Italia. Per il viaggio pagano 5.000 dollari a testa. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E adesso spostiamoci all'estero, parliamo di Iran. Si va verso un accordo sul nucleare e allora sentiamo l'analisi di Alberto Negri. A Ginevra l'accordo con l'Iran sul nucleare non c'è ancora, a quanto pare siamo a un passo, ma già si è prodotto lo strappo tra gli Stati Uniti e Israele, che si aggiunge a quello tra Washington e l'Arabia Saudita, altro storico pilastro degli Stati Uniti in Medio Oriente, da decenni in conflitto con gli ayatollah di Teheran. Il segretario di Stato John Kerry ha dovuto spiegare a Tel Aviv e a Riyadh che un'intesa con Teheran sul nucleare è quasi ineluttabile, in base al principio di Realpolitik. Se l'egemonia iraniana nella regione è inaccettabile, la sua esclusione è impossibile per tentare la stabilizzazione di un Medio Oriente in pericolo di sgretolamento. Ma chi decide oggi davvero è il fattore tempo. La Repubblica Islamica iraniana vive una crisi economica senza precedenti, alleggerire le sanzioni e uscire dall'isolamento è un imperativo. Ma anche gli Stati Uniti hanno fretta. Dopo il flop clamoroso della Siria, devono dimostrare al mondo di essere una superpotenza che decide della pace e della guerra. Restiamo all'estero, ma nelle Filippine c'è stata paura per il super tifone Haiyan. Il bilancio finora è di 4 morti e 7 feriti, oltre a 720.000 evacuati, ma si teme che si possa aumentare col passare delle ore. Haiyan ha toccato terra questa mattina con raffiche fino a 313 km all'ora, una velocità che, se confermata, lo farebbe diventare il più potente mai registrato nella storia. Con la cronaca ritorniamo sulle notizie italiane a Roma, precisamente. Nuovi spunti di indagine ci sono per chiarire le circostanze della morte di Simona Riso, 28 anni, deceduta il 30 ottobre scorso, dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni. Simona cadde alle 6.30 dal tetto dello stabile dove abitava e venne trovata agonizzante in cortile. Il magistrato ha chiesto al medico legale di stabilire se nel suo passato ci siano stati traumi di natura psichica e al vaglio ci sono telefonini e tablet. La strage di Nassiriya avvenne 10 anni fa, l'attentato alla base italiana di Nassiriya in Iraq. Era il 12 novembre 2003 quando un attentato fece strage alla base maestrale dove si trovava il contingente italiano. Le vittime furono 28, 19 erano i nostri connazionali tra carabinieri, militari dell'esercito e 2 civili. 10 anni dopo i processi si sono conclusi con assoluzioni per gli ufficiali di quella base, ma sono ancora pendenti le cause civili per i risarcimenti, per vittime e sopravvissuti, per una sottovalutazione del rischio. In polemica con lo Stato, fino ad ora si è sempre rifiutato di ritirare la medaglia d'oro Riccardo Saccottelli, maresciallo dei carabinieri, ora in congedo per le ferite riportate dall'attentato. L'ha intervistato Raffaella Calandra, che tra inchieste, processi e testimonianze dedica all'anniversario dell'attentato di Nassiriya la puntata di A Ciascuno il Suo, domenica alle 20.30. Quella medaglia era una medaglia fatta di oro che non vale nulla. Ti commuovi, piangi, ti strappi i capelli. I 3 generali indagati sono stati ricompensati dallo Stato con le più alte onorificenze dello Stato italiano, che sono l'Ordine Militare d'Italia e il Cavalierato della Repubblica. E questo è stato fatto mentre c'erano i processi in corso. Allora io cosa devo andare a fare lì, a farmi prendere in giro? Lei era lì a Nassiriya, nella base che è stata presa come bersaglio di questo attentato. Io ero di guardia là fuori. Sono uno dei pochi che è rimasto in piedi. I miei amici sono morti, fatti a pezzi. Comodo far vedere che cosa è successo. I corpi sono stati dilaniati, squartati, bruciati, sciolti. Quel processo lì ruotava intorno alle misure di sicurezza che erano state prese o non prese in quella base, sul fatto che fosse stato o non calcolato il rischio attentati. La sera prima dell'attentato c'era stato Daniele Ghione che aveva detto questo: guarda, qualche giorno fa hanno colpito Baghdad, c'era la sede dell'ONU, poi successivamente hanno colpito, se non sbaglio, la Croce Rossa a Bassora, e noi siamo in mezzo, i prossimi siamo noi. Noi eravamo di guardia lì a difendere non una caserma, ma l'ultimo lembo del territorio italiano. Adesso invece parliamo di uno scandalo che riguarda Roma, lo scandalo Atac. Una nuova bufera si abbatte sull'ATAC, l'azienda dei trasporti pubblici della capitale. Una presunta truffa da soldi ottenuti clonando biglietti e accantonati poi in fondi neri utilizzati per foraggiare la politica, tutto suggellato da un accordo bipartisan fra destra e sinistra, con la complicità di alti dirigenti dell'azienda e rivenditori compiacenti. Il quadro emerso da alcune inchieste giornalistiche ora trova le prime conferme anche in procura, dove sono diversi i filoni di indagine aperti sull'ATAC. Dopo il clamore suscitato dalla vicenda, il sindaco Marino fa sapere che in caso di processi il Campidoglio si costituirà parte civile. Sono fatti precedenti alla nostra amministrazione, ma comunque gravissimi, dice Marino. Siamo desiderosi di sostenere in ogni modo possibile l'azione della magistratura affinché vengano identificati i colpevoli e puniti in maniera esemplare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E chiudiamo con lo sport, però per una volta non calcio, non esiste solo il calcio, esiste anche il rugby, è vero Giacomo Bagnasco del Sole 24 Ore? Cambia la forma della palla da rotonda a ovale, ma di rugby si parla in novembre quasi sempre. Perché? Perché arrivano le migliori nazionali dell'emisfero sud per le tradizionali tournée, per questi test match che fanno sì che anche l'Italia si confronti con alcune delle squadre più forti del mondo. Per tre sabati consecutivi, domani a Torino contro l'Australia, che non abbiamo mai battuto, una squadra piena di talento, e il sabato dopo a Cremona, una novità assoluta, contro le Isole Figi, una squadra di giocolieri molto divertente, per finire con Italia-Argentina che si gioca all'Olimpico in un primo di Roma, e in un primo momento si sperava addirittura che a questo incontro assistesse anche il Papa. In ogni caso sono partite importanti, normalmente sono feste per il pubblico, le trasmette Sky e sarà un bel modo di vedere l'Italia che si confronta con queste squadre, probabilmente con un pronostico chiuso domani con l'Australia e con possibilità in più sia con Figi sia con l'Argentina. Domani comunque i test match cominciano alla grande in tutta Europa, basti pensare che c'è anche Galles Sudafrica e Francia Nuova Zelanda, che è la replica della finale dei mondiali del 2011 quando vinsero gli All Blacks. Magari avremo occasione di parlarne altre volte, Giacomo. Esiste anche quello femminile, diciamo solo questo, esiste quello sì femminile. Esiste anche quello femminile, c'è un campionato, c'è l'Italia che gioca nel Sei Nazioni e soprattutto le ragazze sono più brave dei maschi quanto a risultati ottenuti nel rugby a 7, che è una bella versione di questo sport e soprattutto che ha conquistato il diritto di partecipare alle Olimpiadi, di essere rappresentato alle Olimpiadi. Ne parleremo sicuramente allora, grazie Giacomo volentieri. Bagnasco, adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi ci sono per voi la pagina dei messaggi 349-238-6666 oppure effetto notte trattino Roberta Giordano, la pagina Facebook, se volete commentare il reddito di cittadinanza o anche un altro argomento che c'è sulla pagina Facebook. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sto per presentarvi il primo ospite, ma come sempre dopo la pausa vi ricordo quali sono i titoli dei fatti principali. La manovra, la legge di stabilità, sono 600 gli emendamenti presentati. Letta assicura che non ci sarà nessuna retromarcia sulla seconda rata dell'IMU, nega divergenze col ministro Saccomanni e intanto si accende il dibattito sul reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda i partiti, il PD da lunedì dice stop alle tessere, contrario Civati che commenta è troppo tardi. Lampedusa ha arrestato lo scafista del naufragio del 3 ottobre scorso ed emergono racconti dell'orrore prima di quel naufragio, stupri di gruppo sulle donne e torture. E poi il giallo di Roma nella morte di Simona, forse abusata da una persona a lei vicina. Tito Boeri, buonasera Tito. Buonasera. Economista e prorettore alla ricerca all'Università Bocconi e uno dei fondatori del sito La Voce Info. Tito, allora io mi ero concentrata per te sulla questione dell'IMU, che insomma è veramente un leitmotiv che va avanti da tantissimo tempo. Su quello forse si regge anche la fragile larga intesa, ma vedo nel frattempo che sta montando la questione, il dibattito sul reddito di cittadinanza. Su quale ti vuoi soffermare, Tito? Ma sull'IMU mi sembra una questione abbastanza surreale, perché qui il problema è che si deve trovare una copertura per il fatto di non pagare la seconda rata dell'IMU dopo la prima rata, e tra l'altro le coperture per non pagare la prima rata sembrano tutt'altro che assicurate, quindi molto probabilmente alla fine dell'anno scatterà questa clausola di salvaguardia che imporrà alle famiglie e alle imprese di pagare delle tasse più alte per coprire la prima rata. Sulla seconda, che è paradossale, paradossale. Levi da una parte, comunque, però poi aggiungi dall'altra. Sì. Esatto, e la seconda rata le coperture non sono state ancora trovate e quindi molto probabilmente alla fine quello che accadrà è che non, formalmente non si pagherà la seconda rata, ma si pagherà un anticipo sulla nuova tassa sulla casa, la cosiddetta TASI, la tassa sui servizi, e che dovrebbe entrare in vigore dal 2014. E anche qui tra l'altro c'è una vicenda abbastanza paradossale, perché la TASI dovrebbe, secondo poi le discussioni all'interno della coalizione di governo, assicurare lo stesso gettito dell'IMU. Dovrebbe avere le stesse proprietà distributive dell'IMU, cioè riuscire a tassare in modo tale da non cambiare molto il profilo tra ricchi e poveri di chi viene tassato. E inverso, dovrebbe dare gli stessi spazi di manovra dell'IMU, quindi praticamente dovrebbe essere uguale all'IMU, solo che si chiamerà TASI. Ecco, si cambia nome e quindi si cambia anche questo. E questo è un po' il paradosso di tutta la vicenda. Insomma, senti, alla fine ritorniamo sempre alle stesse tasse e agitiamo. Con un nome diverso, con un po' di fantasia. Tito, però, sentivo Pietro Ichino, il gius lavorista di Scelta Civica, stamattina una trasmissione televisiva, che diceva si toglie la tassa a chi possiede, cioè proprietari di case, invece di pensare prima a chi produce e a chi consuma, quindi l'IVA, il cuneo fiscale. Tu che ne pensi? Ma io ritengo che in effetti oggi tutte le risorse disponibili dovrebbero essere utilizzate per abbassare le tasse sul lavoro. È fondamentale sia per aumentare l'occupazione che per migliorare la competitività delle nostre imprese, che per aumentare il reddito che finisce nelle tasche di chi lavora. Sono tutte condizioni indispensabili per cercare di intercettare quella domanda che viene dall'estero e per cercare di far sì che quegli piccoli spiragli di ripresa si possano rafforzare. Purtroppo la scelta sulla casa invece è una scelta che va in controtendenza rispetto a quello che succede in tutti gli altri paesi, dove la tassa viene normalmente tassata. Quello che bisogna fare sulla casa è migliorare l'equità di questa tassa, che spesso invece va a basarsi su dei valori che sono molto lontani dai valori di mercato. E bisognerebbe anche ridurre l'imposizione sulle compravendite immobiliari, perché abbiamo delle persone che hanno dei redditi molto bassi, magari anche delle proprietà immobiliari non piccole, che devono pagare delle tasse molto alte se vogliono vendere la loro casa e comprarsene una meno di valore. Quindi bisogna incrociare il reddito effettivo delle persone, il valore della casa, ma anche rispetto a quello che percepiscono di stipendio o di pensione, in questo senso? Sì, e bisognerebbe soprattutto, ripeto, ridurre le tasse sulle compravendite immobiliari, perché se una famiglia si scopre di avere dei redditi, ha dei redditi molto bassi, ha delle proprietà immobiliari che decide di vendere e poi magari comprarsi una casa ad un prezzo più basso, non può farlo perché deve pagare delle tasse molto alte. Senti, un'ultima, proprio un tuo commento sul reddito di cittadinanza, perché c'è scontro tra Movimento 5 Stelle e PD, e c'è Grillo che dice si possono trovare le coperture, tagli alla difesa, 8 per 1000, pensioni d'oro e l'IMU per quanto riguarda la Chiesa, mentre Fassina del PD, vice ministro dell'economia, dice ci sono spese per 30 miliardi per dare il reddito di cittadinanza a tutti, 600 euro, non c'è la copertura. Intanto il PDL di poco fa dice dalle concessioni, vendiamo le spiagge, dalle concessioni sugli arenili possono arrivare 4-5 miliardi, proprio un pensiero così. Ma qui mi sembra che proprio veramente ci siano proprio all'insegna dell'incompetenza più totale, perché si parla di cose complicate nel modo più approssimativo possibile. Tra l'altro siamo già in una situazione di grande difficoltà per il Paese, per cui davvero inviterei un pochettino più di attenzione nel parlare delle cifre a caso. E sicuramente il reddito, avere uno strumento di assistenza di base per i poveri è un fatto molto importante. E noto con piacere che il Movimento 5 Stelle, che inizialmente parlava di un reddito di cittadinanza, cioè qualcosa che viene dato a tutti i cittadini indipendentemente dal loro livello di reddito, quindi paradossalmente era un trasferimento che avremmo dovuto pagare anche, non so, a Berlusconi e alla sua famiglia, adesso parla di qualcosa di diverso, perché se capisco bene quello che c'è nel disegno di legge del Movimento 5 Stelle, questo è un trasferimento che viene dato soltanto a chi ha dei redditi inferiori a 6.000 euro all'anno. Allora lì si comincia a ragionare su cose che sono a mio giudizio valide, che andrebbero fatte in Italia per sostenere le persone che si trovano in condizioni di povertà assoluta. Sono tante, purtroppo sono aumentate durante la recessione e continuano a non avere alcun tipo di aiuto da parte dello Stato, al contrario di quello che viene in altri paesi. Proprio una risposta telegrafica, Tito, secondo te sarà possibile arrivarci per i più poveri a questo? Io penso assolutamente di sì, che bisognerebbe dare priorità agli interventi di questo tipo. Non è da oggi, ma da molto tempo che dico che questo dovrebbe essere fatto in Italia. Abbiamo uno Stato sociale che dà soldi a chi non ne ha così tanto bisogno, invece non si preoccupa dei più poveri. Purtroppo i più poveri sono poco rappresentati nel processo politico e quindi finiscono sempre per essere esclusi da questi provvedimenti. Quindi se certo si va in questa direzione, lo trovo un fatto positivo. Grazie Tito Boeri. Buona serata, grazie, buon fine settimana. Ciao Tito. E vedo, stanno arrivando diversi vostri messaggi al 349-238-6666. Un ascoltatore dice: se non ci fosse il Movimento 5 Stelle, l'Italia sarebbe morta. L'unica via d'uscita sono loro. Speriamo che le prossime elezioni arrivino presto. E, mentre vedo sulla pagina Facebook Effetto Note, trattino Roberta Giordano per riconoscerla, diverse ascoltatrici e ascoltatori si stanno esprimendo su un caso di cui parleremo dopo, un caso di prescrizione di un uomo che ha ucciso nel 1990 sua moglie, e siccome è passato del tempo e si è scoperto solo dopo che era stato lui, il tutto è andato in prescrizione, non farà neanche un solo giorno di galera. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo quindi con le notizie e ripartiamo dai titoli dei fatti principali. Con la legge di stabilità in primo piano sono 600 gli emendamenti presentati. Letta assicura che non ci sarà nessuna retromarcia sulla seconda rata dell'IMU e nega che ci siano stati dei contrasti con il ministro dell'economia Saccomanni, e si accende intanto il dibattito sul reddito di cittadinanza. Per quanto riguarda i partiti, il PD ha deciso che da lunedì ci sarà lo stop alle tessere, è contrario però tra i candidati Civati che dice è troppo tardi. Lampedusa ha arrestato lo scafista del naufragio del 3 ottobre scorso ed emergono racconti dell'orrore prima del naufragio, stupri di gruppo sulle donne e torture. E a Roma c'è il giallo della morte di Simona, forse, secondo gli investigatori, abusata da una persona a lei vicina. E prima di presentarvi la prossima ospite, alleggeriamoci anche un po', sentiamo un po' di Crozza nel Paese delle Meraviglie. Perdo il contatto visivo, va bene, si è girato. Ma non quello mentale. Sta imitando Renzi. Bene, sì. Faccia il numero con le dita. Sì, lo faccio. Ecco. L'ha fatto? Sì, l'ho fatto. Bene. Sì. Nasconda le dita. Va bene, nascondo. Le mischi per ma sicurezza. Ma sì, le ho nascoste, non si vede. Mamma, ma parliamo di politica. Oh. No. Che cosa è qui? La busta. Cosa c'è? Indovinare del fare delle dita, del mischiare. Prenda questa busta. Sì, la prendo. Insomma, un po' lei un Renzi show sta facendo 7, con tutte vero? Le stelline dei baci Perugina. Di solito imita Renzi con tutto questo sfondo, di solito, sì, no? Secondo lui un po' sdolcinato, evidentemente, un po'. Vabbè. Io Renzi prevedo che sbaglierò previsione, ma è bravissimo. Signori miei, bravissimo. No, questo ma è il capire, è del bravo. Sentire, del cuore, sì. Del carotare. Sì, carotare, però senta. Allora, signori miei. Sì, no, parliamo di i poveri. Bene, adesso però parliamo appunto di un fatto che avevo anticipato poco fa, per il quale state commentando sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ne parliamo con Barbara Spinelli. Buonasera, Barbara. Buonasera. Avvocata, autrice del libro Femminicidio e consulente per l'ONU appunto su questo tema, quello del femminicidio. Il fatto è questo: c'è stata oggi notizia della decisione del Tribunale di Pescara rispetto a un uomo che ha ucciso nel 1990 la moglie. Beh, il reato è andato prescritto, lui aveva confessato ma non sconterà neppure un giorno di prigione. La vittima si chiamava Teresa Bottega, aveva 35 anni e il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha deciso oggi appunto di non doversi procedere, come si dice, a carico di Giulio Cesare Morrone, che nel 1990 avrebbe ucciso la moglie Teresa Bottega nel Pescarese. Tra l'altro Come si è saputo che era stato lui? Perché dopo molti anni si pensava che lei fosse scomparsa volontariamente, come spesso si archiviano questi casi, invece dopo molti anni si è riaperto il caso, il cold case si chiama in America di solito, risolto dopo 22 anni, grazie alla testimonianza di un uomo che ha scoperto tutto dal racconto di un sacerdote il quale a sua volta aveva ricevuto la confessione di Morrone, che si era voluto sgravare di questa colpa dopo anni, quando ormai sapeva che il reato sarebbe andato in prescrizione. Ma mi chiedo, avvocata Barbara Spinelli, è possibile che un omicidio di questo tipo, con l'aggravante anche, no, della parentela, della vicinanza affettiva, eccetera, possa andare in prescrizione? Com'è possibile che uno non possa pagare perché sono passati troppi anni? Allora, innanzitutto bisogna dire che la prescrizione è un istituto che esiste in tutti gli stati del mondo, nella sì. maggior parte, e prevede che passato un certo tempo da un fatto, un tempo che è pari alla gravità del reato, non c'è più interesse dello Stato a punire il reato perché viene meno la funzione deterrente e rieducativa della pena. Ora, su questo caso specifico ha influito sicuramente il fatto che il nostro legislatore non ha incluso l'omicidio della moglie tra quelli per cui è previsto l'ergastolo. Cosa significa? Significa che gli unici reati, quelli che vengono considerati più gravi dallo Stato perché puniti con l'ergastolo, non vanno in prescrizione, e il nostro codice all'epoca prevedeva che l'omicidio a cui si applicava l'ergastolo era quello a cui era quello soltanto aggravato, cioè commesso contro l'ascendente o il discendente, con sostanze venetiche, con la premeditazione, oppure per motivi abietti o futili o con crudeltà. Invece, se veniva uccisa la coniuge o i parenti adottivi, la pena era della reclusione da 24 anni, per cui la prescrizione si applicava. Se questo fatto fosse successo oggi e se il PM ad esempio avesse contestato i pregressi maltrattamenti, che ad esempio in questo caso pare di leggere dal Corriere della Sera, perché noi sì. non conosciamo gli atti giudiziari, ci c'erano numerose liti, costantemente liti, alla fine esatto, se fossero stati contestati, il legislatore di oggi prevede, e se il fatto fosse successo oggi, il legislatore prevede che quando l'omicidio segue a una relazione di maltrattamenti o atti persecutori sia punito con l'ergastolo e dunque il reato imprescrittibile. Per cui diciamo i casi più ricorrenti di quello che viene definito femminicidio nel nostro paese, se avvengono oggi a seguito delle riforme apportate dal legislatore, sono imprescrittibili. Purtroppo, con riferimento a questo fatto, non rientrando, secondo quello che possiamo capire dal giornale, in uno dei casi di omicidio aggravato, c'è questo effetto che determina l'impunità. È gravissima, è una stortura del sistema. E quindi diciamo che il legislatore sicuramente se ne è accorto e ha posto rimedio nel tempo. Forse troppo tardi. Comunque, avvocata Spinelli, leggiamo anche qualche messaggio sulla pagina di Effetto Notte. Dico sempre trattino Roberta Giordano perché così si distingue da altri che possono avere lo stesso nome. E Marco scrive: ma l'omicidio volontario non dovrebbe avere prescrizione, ma ha spiegato l'avvocata Spinelli perché purtroppo in passato era così. Vitangelo esprime una cosa piuttosto colorita ma efficace. Poi dice Adriana: sono d'accordo con Patrizia Guarisco, credo che sia una magistrata, un'avvocata, adesso non ricordo. Domenico: sarebbe ora di mettere mano al codice penale e di procedura penale. Abdel dice: che cosa vuol dire la prescrizione? Solo in Italia scatta dalla commissione del fatto, nei paesi normali scatta nel momento in cui inizia il processo. Ma forse anche qui, quando inizia il processo, no, Barbara Spinelli? No, la prescrizione scatta dal fatto e poi viene sospesa da vari eventi processuali. Vorrei lanciare una grandissima provocazione ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Sì. In Italia l'imputato, l'indagato, può decidere di scegliere di rinunciare alla prescrizione ed essere giudicato. Forse un grande cambio culturale, una vera assunzione di responsabilità avrebbe dovuto portare a questo? Bah, mi pare diciamo una scelta che non ho idea di chi potrebbe fare. Il nostro sistema è estremamente garantista e quindi sicuramente ha avuto delle storture nel passato rispetto a quella che l'applicazione dell'imprescrittibilità rispetto all'omicidio e l'omicidio aggravato, e lì la scelta del legislatore si è orientata nel tempo. Però sicuramente questa facoltà per l'imputato di rinunciare alla prescrizione in casi come questo dovrebbe rispondere anche alla pressione, allo stigma sociale che c'è verso questo reato, verso questo comportamento. Invece evidentemente a livello sociale quello che emerge è la richiesta di giustizia da parte del sistema, ma non la condanna della cultura anche che c'è dietro il comportamento processuale di chi commette questi reati. Io credo che sarebbe importante ragionare anche su questo, ragionare sull'impunità. Infatti la relatrice speciale dell'ONU nel suo rapporto relativo alla missione in Italia che c'è stata nel 2012 ha detto che c'è una grave responsabilità dello Stato proprio per questo senso di impunità determinato dalla cattiva risposta della giustizia a questo tipo di reati, anche quindi a causa di molti casi di femminicidio che sono andati in prescrizione. Tra l'altro la relatrice incontrò all'epoca molte dei parenti delle vittime di questi casi andati in prescrizione, e chiede però allo Stato di intervenire non solo migliorando appunto la celerità del sistema giudiziario, ma anche sotto il profilo culturale. Dice che è un aspetto importantissimo. No, sicuramente importantissimo, forse quello di decidere personalmente di rinunciare alla prescrizione è un fatto individuale, anche se fa parte della cultura di un paese. Quello di ricevere giustizia su una cosa così grave è più, diciamo, un sentimento collettivo. Leggo ancora sulla pagina di Effetto Notte Massimo che dice: l'assassino non dovrebbe essere soggetto a prescrizione, abbiamo delle leggi vergognose e dei giudici ancora peggiori. Alberto invece dice: la prescrizione è un principio di diritto e di civiltà, la sua ratio si fonda sul fatto che se abbiamo un sistema giudiziario non in grado di trovare la verità in tempi accettabili, non possiamo pretendere che un cittadino, anche se colpevole, stia degli anni ad attendere un giudizio che per disfunzioni varie del sistema non arriva mai. Quindi dice dobbiamo prenderlo come un dato di fatto, anche se Barbara Spinelli, l'avvocata, spiegava che adesso sono state aggiustate delle cose in questa specie di stortura, per cui si spera. Ma questo vale quindi per qualsiasi omicidio d'ora in poi, volontario, non ci sarà la prescrizione? Purtroppo no, il legislatore ha scelto che solo per gli omicidi aggravati non ci sarà la prescrizione, cioè solo per quegli omicidi puniti con l'ergastolo. Anche se non ha molto, non dà molto senso di giustizia questa cosa. Se uno uccide volontariamente qualcuno, perché dovrebbe essere prima o poi prescrittibile questo tipo di reato, il più grave, insomma, no? Sicuramente è una scelta politica del legislatore, quindi su questo si può aprire un grandissimo dibattito e si può sollecitare quelle che sono appunto le scelte del legislatore. Ricordiamo però che gli omicidi volontari non sempre vengono commessi con un dolo pieno, con un dolo volontario. Molto spesso ci sono anche omicidi che vengono commessi con un dolo eventuale. Però ci potrebbero essere attenuanti e varie altre cose senza che si cadano in prescrizione. Però è un dibattito, come diceva lei, che diventa molto ampio, quindi per il momento ci fermiamo qui, tanto purtroppo ci sarà occasione di parlarne altre volte. Grazie Barbara Spinelli. A voi, buona serata. Buona serata. E vedo ancora i vostri messaggi al 349-238-6666 sugli argomenti vari che abbiamo trattato questa sera. Per esempio sul reddito di cittadinanza, un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, dice: una grande opportunità, non deve essere più un'assistenza sociale, come detto da Boeri, deve essere piuttosto un risparmio fornito dallo Stato al cittadino, un risparmio, diciamo, un sostegno. E poi sull'ATA, che il sindaco Marino ha già stabilito che ci siano dei colpevoli e non dei presunti colpevoli, la solita sinistra giustizialista, scrive Giuseppe. Insomma, tanti argomenti state trattando, però per il momento aggiorniamo chi sta viaggiando, poi ne affrontiamo altri. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ancora Roberta Giordano con voi. Vogliamo sentire, prima di ricordarvi i titoli, ancora un po' di Crozza? Io ho paura. Questo è Conte, l'avete riconosciuto? sentite ragazzi, fatelo voi. È agghiacciante, signori miei. Un tecnico tattico che sente una cazzata agghiacciata. Questa cosa qua o la dice Primo Levi o è agghiacciante veramente. Però ne dobbiamo dire un'altra, non so che effetto vi farà, però è un'agenzia che è appena arrivata, Berlusconi, ed è l'Utri in realtà che parla per Berlusconi, dice tutti e cinque i figli del Cavaliere in modo compatto hanno chiesto la grazia per il Cavaliere. La notizia è data a Marcello Dell'Utri, ospite della trasmissione Virus su Rai 2. E quindi alla fine questa richiesta è arrivata ufficialmente, è un po' un colpo di scena, in realtà se ne parlava in questi giorni, lo stesso Berlusconi aveva ricordato che il Quirinale aveva ancora tempo per concedergli la grazia, a questo punto è arrivata appunto la richiesta ufficiale dei cinque figli, sarà la notizia di questa sera e di domani sicuramente. Ma intanto parliamo anche d'altro col vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, ciao Salvatore. Ciao, buonasera. Non so trovarvi qua. Perché nasce una nuova creatura del Sole da lunedì? Sì, nasce una nuova creatura che sarà insieme un nuovo inserto del Sole 24 Ore del lunedì, Risparmio e Famiglia, quindi diciamo un'iniziativa, una cosa che già apparteneva alla tradizione del Sole 24 Ore del lunedì e che era stata abbandonata negli ultimi anni e che invece ora abbiamo deciso di riprendere. Anche perché vista la situazione è particolarmente necessario insomma parlare di come si può risparmiare. Sì, assolutamente, Risparmio e Famiglia è l'idea di cercare di ottimizzare l'utilizzo dei propri quattrini, quindi il risparmio in senso stretto ma anche in un'accezione un po' più ampia, no? Perché ci sono tante attività della nostra vita quotidiana nelle quali possiamo cercare insomma di risparmiare, di scegliere meglio, di spendere meglio i nostri soldi. Ecco, Risparmio in Famiglia vuole essere un po' questo, ovviamente con un'attenzione particolare al risparmio inteso come investimento dei propri quattrini, ma non solo. Quindi anche come tagliare spese qua, è una spending review anche della famiglia. Assolutamente, per esempio nel primo numero avremo un confronto tra le tessere fedeltà offerte dai treni ad alta velocità. Ah, quindi, questo è interessante. Esatto. No? Un po' di concorrenza inizia tra Trenitalia e Italo. Italo, esattamente, no? Poi ognuna di delle due compagnie ha delle tessere fedeltà e andiamo a vedere insomma quale delle due è più conveniente, insomma un piccolo giochino però interessante e che aiuta a capire come a volte insomma utilizzando meglio i propri soldi si possono ottimizzare tante cose. C'è un altro esempio da fare, Salvatore? Sì, c'è un altro esempio. I nostri figli, abbiamo una pagina che sarà dedicata ai figli, diciamo, a come investire e a come ottimizzare i consumi in funzione dei figli. Quindi anche qui, per esempio, come preoccuparsi di risparmiare qualche cosa per poterli poi mandare all'università o per fargli fare un master, oppure quali sono i prodotti bancari o le carte di credito che sono più adatte ai ragazzi. Il tutto sempre diciamo confrontando le varie offerte degli operatori e cercando di dare anche qualche giudizio, qualche consiglio: questa può essere meglio, questa può essere peggio. Ci sarà anche qualcosa che riguarda, adesso vabbè, bisogna vedere ancora, mi ha sentito parlare dell'IMU, su questo non so come si potranno consigliare le famiglie di risparmiare, perché quello che decideranno in Parlamento quello sarà. Certamente, però avremo ovviamente una storia di copertina, un servizio di copertina molto forte che sarà sviluppato su tre pagine, nel numero del debutto, quindi lunedì ci occuperemo dell'home banking, insomma è una modalità che ormai sta soppiantando la visita quotidiana o più o meno agli sportelli bancari. Cioè fatto da casa col computer. Fatto da casa col computer, ma adesso anche con il tablet, con gli smartphone, eccetera. È un mondo, diciamo, che molti conoscono, è un mondo al quale invece molti si stanno avvicinando. Io ancora mi devo avvicinare, ecco. Ci sto provando. Allora, guarda, tu sei il nostro lettore ideale del giornale di lunedì. E avremo ovviamente anche diciamo dei consigli un po' più operativi sulla gestione del proprio portafoglio. andando ovviamente ad analizzare i prodotti classici del risparmio per le famiglie, quindi i titoli di Stato, le obbligazioni, ma cercando anche di allargare un pochino, di diversificare, e non so, per esempio ci sono delle polizze che sono sicuramente interessanti, cercando di spiegare sempre rischi e vantaggi. Questo quindi ogni lunedì, risparmio e famiglia. Risparmio e famiglia. Nuovo inserto del Sole 24 Ore. Nuovo inserto del Sole 24 Ore. Il lunedì poi il Sole 24 Ore continuerà, diciamo, a mantenere la sua forte identità con un inserto dedicato alle norme tributi, quindi diciamo più al pubblico professionale, però ci sembrava, ecco, che questo tipo di offerta di informazione e di servizio mancasse un po' nel panorama del Sole. Quindi ci riappropriamo di una tradizione vecchia che ovviamente innoviamo, perché nel frattempo le cose sono cambiate. Grazie Salvatore Padula. Grazie a voi. Grazie, ciao, buon lavoro. E adesso, fra le notizie, noi non possiamo prevedere che cosa succederà, ma almeno per il meteo possiamo chiedere al colonnello Mario Giuliacci cosa accadrà nelle prossime ore. Colonnello Giuliacci. Bene, se mi chiede le prossime ore, sono dottrinato, te lo dico subito: smetterà di piovere sulle regioni di nord-ovest, mentre le piogge si sposteranno soprattutto sulle regioni tirreniche centrali. Ma vediamo in dettaglio, cioè uno sguardo generale. Diciamo che vedremo un po' di tutto in questo fine settimana: le piogge, la neve, ovviamente sulle Alpi, venti forti sulle regioni tirreniche e temperature in calo anche di 7-8 gradi sulle regioni centrali, di 4-5 gradi nord e al sud. Ma andiamo con diciamo nei dettagli. Sabato le piogge sulle regioni di nord-est e regioni tirreniche per una prima perturbazione, domenica ancora piogge sulle regioni di nord-est, regioni centrali tirreniche, al mattino piogge anche al sud per effetto della prima perturbazione, quella che arriverà domani, mentre domenica sarà la seconda perturbazione. E sempre nella giornata di domani, sabato, nevicate oltre 1500 metri, domenica invece nevicate fino a quote piuttosto basse, intorno a 1000 metri, quindi nevicate da 1000 metri in su e nevicate comunque diffuse su quasi tutto l'arco alpino. Per quanto riguarda venti forti su Sardegna e regioni tirreniche, addirittura venti fino a 100 km all'ora ad ovest della Sardegna, venti di fen nel pomeriggio sera sulle regioni di nord-ovest. Come dicevo, le temperature in calo soprattutto tra domenica e lunedì, di 4-5 gradi al nord e 6-8 gradi al centro, 5-6 gradi al sud. Come vedi, ero molto indottrinato sul tempo, vero? Sono stato bravo. Molto molto preparato il colonnello Giuliacci, del resto se non lo è lui, www.meteogiuliacci.it, questo è il suo sito se volete saperne di più. Leggerò poi per conto mio a questo punto i vostri messaggi al 349-238-6666, però tanto da lunedì ci risentiamo. Intanto ringrazio per la collaborazione Cristian Goldoni, alla parte tecnica c'è Filippo Aureggi, ma poi vi aggiorno anche alle 22, tra poco.